24 mattino. Sono le 8 e 16 minuti, ben ritrovati. 24 mattino è radio24.it, è la nostra mail, gli sms al 349-238-6666. E allora, a quest'ora, come di consueto, come sapete, è il momento di parlare un po' di economia. Soldi e dintorni. Ben ritrovata allora Deborah Rosciani, buongiorno, buon lunedì. Buon inizio settimana a tutti, grazie. Allora, oggi il tema che ho preannunciato è quello delle assicurazioni. Sì. Mi sa che ci butteremo in un ginepraio, in un tema molto caldo. Un tema molto caldo perché a vario titolo abbiamo sempre il pretesto per litigare con la nostra compagnia, sì, perché non ci piacciono le tariffe praticate, ma anche perché, per esempio, quando siamo nostro malgrado protagonisti di qualche incidente o lo subiamo, ci sono dei ritardi per quello che riguarda la liquidazione di questi sinistri. Prima però volevo raccontarti in realtà un altro paio di notizie carine che ho scoperto dal territorio giapponese. Lo sai che per essere proprietari di un'automobile in Giappone bisogna anche dimostrare di essere proprietari o comunque di avere la disponibilità di un parcheggio? Sarebbe una bella soluzione per quello che riguarda Milano, Alessandro, che ne pensi? Sì. Il crollo delle vendite d'auto a Milano. Esatto, perché non c'è nessun parcheggio. E invece sempre in Giappone ho scoperto che ci sono tre grandi compagnie che si fonderanno, perché te la racconto questa storia, non ci interessa quello che succede in Giappone, ma perché una di queste compagnie si chiama Aioi e in qualche maniera richiama anche il tema di cui parliamo questa mattina, perché son dolori. Io prima di tutto saluto, lasciamo da parte questo siparietto e queste notizie folcloristiche, saluto e ringrazio di essere con noi la dottoressa Maria Luisa Cavina, responsabile tutela utenti dell'ISVAP, che è l'autorità di vigilanza nel settore assicurativo. Dottoressa Cavina, buongiorno. Buongiorno. Allora, abbiamo appreso che recentemente l'ISVAP ha comminato un record di multe nel 2008 al settore assicurativo. Si tratta di sanzioni per quasi 40 milioni di euro, con un aumento di circa il 20% rispetto a quelle che erano già state comminate l'anno precedente, nel 2007. Perché le compagnie di assicurazione italiane si sono meritate questa sanzione? Sentiamo la testimonianza di alcuni ascoltatori che chiamano Radio 24. Qualche anno fa mi sono appunto scontrata con questo tipo di normativa che la mia compagnia di assicurazione già praticava, cioè rimborso diretto. È stato subito un incidente, constatazione amichevole, tutta una cosa assolutamente trasparente e tranquilla. Utilizzo questa formula portando la macchina dal carrozziere convenzionato e sembrava tutto assolutamente normale, cioè io ero al di fuori, veniva regolato, sarebbe stato regolato dalla compagnia di assicurazione. Dopodiché, proprio in prossimità della partenza per le vacanze, con già il biglietto in tasca, mi vengono a dire che l'auto è stata riparata, ma che io devo corrispondere qualcosa come 4.500 euro se voglio ritirarla. Mia moglie ha avuto un problema di incidente nel mese di ottobre in autostrada. Lei camminava nella regolare sua corsia dopo di aver pagato il pass e una macchina gli è andata addosso, distruggendo la macchina, e mia moglie ha avuto un grande colpo di frusta che tuttora è in fisioterapia. E la nostra assicurazione non ha dato nessuna indicazione di come fare. Abbiamo avuto da un nostro amico la possibilità di dire l'unica cosa è rivolgersi all'avvocato, perché questa assicurazione, e siamo clienti da questa assicurazione da oltre 12 anni. Dottoressa Maria Luisa Cavina, allora la grande maggioranza, da quello che ho capito, dei procedimenti sanzionatori che l'ISVAP avvia e poi naturalmente conclude è motivata da ritardi nella liquidazione dei sinistri, un tema che fa molto arrabbiare tutti i proprietari di auto in Italia, quindi titolari di un'assicurazione RC Auto. Sì, è vero, la causa assolutamente prevalente di sanzioni, e prima che di sanzioni di reclami, perché come sicuramente si è letto anche nelle notizie di stampa che hanno riportato di questa impennata delle sanzioni comminate dall'ISVAP, la principale causa deriva da reclami che sono trattati dall'ISVAP e che ci vengono dai consumatori. Ho sentito le testimonianze dei due ascoltatori e devo dire che È importante sottolineare come in entrambi i casi, e questo è un fatto molto molto grave, ci sia stato un caso di risarcimento diretto che non è andato a buon fine. Allora, risarcimento diretto dovrebbe essere esattamente, portare esattamente al contrario di quello che è accaduto, perché la riforma del risarcimento diretto serve proprio a mettere in contatto il cliente con il proprio assicuratore e a velocizzare i tempi del risarcimento e anche a contenere i costi. Ecco, infatti, no, volevo anche ricordare, dottoressa Cavina, poi la lascio concludere, che l'indennizzo diretto è entrato nel nostro ordinamento un anno e mezzo fa circa e avrebbe dovuto effettivamente velocizzare le pratiche di risarcimento dei sinistri, quindi velocizzare i tempi. Queste multe, in realtà di queste multe non avremmo neanche dovuto parlare in questa sede, teoricamente. Per esattezza bisogna dire che queste multe si riferiscono per la maggior parte a casi precedenti all'entrata in vigore del risarcimento diretto, che, lo ricordo, è partito dal 1 febbraio 2007. Perché casi precedenti? Perché tra la presentazione del reclamo all'ISVAP e l'istruttoria del procedimento sanzionatorio, che ha i suoi tempi perché bisogna consentire all'impresa di difendersi e di fornire i suoi elementi, c'è un tempo tecnico che fa sì che le sanzioni del 2008 si riferiscano in buona parte a un tempo precedente all'entrata in vigore del risarcimento diretto. Ma quello che devo dire è che noi abbiamo assistito ad un aumento importante di reclami anche nel 2007 e anche nel corso del 2008, quasi tutti ancora concentrati sulla liquidazione dei sinistri, il che ci porta a una riflessione fondamentale, ed è questa: il risarcimento diretto, che noi stiamo monitorando come effetti, perché è stata una riforma importante, ha effettivamente inciso sui tempi di liquidazione dei sinistri, perché li ha abbreviati, e questo ce la dice lunga su quella che era la tempistica precedente e sul perché l'ISVAP sia così presente e così sollecito nel sanzionare le compagnie che se lo meritano, perché quello della liquidazione dei sinistri è un fronte caldissimo ed è un fronte fondamentale per il rapporto con il consumatore. Tra l'altro, visto che le compagnie che se lo meritano, allora innanzitutto infatti, Deborah, arriva un messaggio di un assicuratore, Gualtiero, che ci dice: ben vengano le sanzioni ISVAP, ma ci sono tante compagnie serie e rapide nei pagamenti. Ma no? Queste non è che non siano serie. No, che, no, certo, ecco. Però visto le compagnie che se ne meritano, qualche giorno fa sul Sole 24 Ore c'era anche la classifica di quelle più multate. Milano Assicurazioni ha preso circa 7 milioni a rotondo, un po' di euro di multa. Fondiaria SAI 5 milioni, Aurora Assicurazioni 3.700.000 euro, Inas Italia 2.000.115.000 euro, e così via. Sono poi leader di mercato nel settore, quindi è più facile che vengano multate con più frequenza. Sì, anche su questo bisogna dire che sicuramente quelle classifiche e quelle statistiche fanno, come si suol dire, notizia e sono a loro volta un incentivo alle compagnie a migliorare il servizio, perché sappiamo tutti che oggi il danno reputazionale è un fattore non è una bella pubblicità, insomma. No, è un fattore molto importante per le imprese, che, ripeto, la prima cosa che devono fornire è un servizio al cliente, quindi certo non è un buon libretto di presentazione. Dottoressa Cavina, direi che queste importante questo punto, sono le imprese che hanno il portafoglio maggiore, quindi in una certa misura statisticamente parlando è più facile, appunto, che, esatto, che vengano questo multate. Non significa naturalmente che anche queste imprese non debbano perseguire l'efficienza, un rapporto corretto con i clienti e la celerità nei tempi di liquidazione dei sinistri. Ecco, questi quello sono che... No, lei, io la continuo ad interrompere. Prego. Perché quello che, siccome abbiamo pochi minuti, quello che volevo arrivare a dire ai nostri ascoltatori è che ovviamente la vigilanza dell'ISVAP nel settore è fondamentale, è molto importante, ma prima di arrivare alla sanzione, quindi prima di arrivare a porre un reclamo all'ISVAP perché l'atteggiamento, il comportamento della nostra compagnia di assicurazione non ci è piaciuto, lo riteniamo appunto lesivo in qualche maniera dei nostri interessi, c'è qualcos'altro anche, dottoressa Cavina, che possiamo fare per tutelarci? Per esempio, cambiare la compagnia di assicurazione. Questo lo abbiamo denunciato, tra virgolette, molte volte anche dai microfoni di Salvadanaio. L'assicurato italiano fa un po' fatica a guardarsi intorno e magari cercare la compagnia che fa un po' più al caso suo. Questo è vero. Da un lato c'è il fatto che il nostro mercato assicurativo non ha brillato e forse tuttora non brilla per concorrenza e per offerte variegate, diciamo così. Sappiamo che fino a qualche tempo fa c'è stato un problema serissimo di prezzi dell'assicurazione RC Auto, un problema che permane tuttora, anche se per fortuna senza quei picchi di aumento eclatanti che abbiamo visto in passato. Qualcosa molto sta facendo l'autorità anche per favorire la mobilità del consumatore. Ci vuole anche un pochino di intraprendenza, un po' di pazienza nel mettersi a cercare delle offerte comparative. Le imprese oggi hanno sui loro siti la possibilità di fare dei preventivi online, cosa che si può fare anche presso gli agenti e tutti i punti vendita, ma soprattutto quello che mi preme dire è che stiamo lavorando come ISVAP insieme con il Ministero dello Sviluppo Economico al varo di uno strumento che sarà effettivamente una piccola rivoluzione. Il preventivatore, unico. No? Sì. Sì, il preventivatore unico RC Auto che consentirà al consumatore di accedere a internet con un unico accesso e di avere la lista dei preventivi di tutte le compagnie che lavorano nel settore dell'RC auto e quindi avere la possibilità in modo veloce, rapido di comparare offerte simili con la sicurezza che poi si potrà eventualmente contattare la compagnia o l'agente per sapere se c'è la possibilità di ottenere degli sconti, perché un'altra cosa importante da dire sul fronte dei prezzi è che anche con un recente regolamento dell'ISVAP è stata regolamentata e conservata la possibilità di applicare degli sconti sulla tariffa e quindi di spostare la concorrenza sul prezzo vero e proprio del prodotto. Dottoressa Cavina, il tempo a nostra disposizione, come sempre, è tiranno e anche questa mattina è terminato, però naturalmente io ricordo che voi avete il vostro sito a cui ci si può rivolgere per sporgere il reclamo qualora riteniamo che la compagnia di assicurazione alla quale ci serviamo non si comporti correttamente. Ci sono anche tante guide utili per i consumatori sul vostro sito. Ricordo l'ISVAP, la ringrazio per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. A presto, Alessandro. E allora, tra poco, Deborah, ci risentiamo alle 12, come di consueto, salva sì, da noi. Ci risentiamo, non ci con risente, me, voglio sì. dire, gli ascoltatori. Se vuoi, anche perché, guarda, parliamo di multe e cartelle esattoriali, per cui se vuoi partecipare a raccontarci qualche tua disavventura in questo senso, che sicuramente ne hai nel tuo armadio, per cui multe e cartelle esattoriali, come contestarle. Va bene. A più tardi. Allora, alle 12, grazie. Poi noi ci ritroviamo ovviamente domattina con Deborah Rosciani a Soldi e Dintorni a quest'ora. Sono le 8 e 32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan con 24 Mattino. Diamo uno sguardo alle ultime notizie. Il dibattito sulla sicurezza, Berlusconi più soldati, ne parleremo con il presidente Napolitano. Poi una battuta che fa infuriare l'opposizione: ci vorrebbero tanti soldati quante sono le belle ragazze. Sono due le persone morte per una frana sull'autostrada A3 a Rogliano Grimaldi in provincia di Cosenza, ma i vigili del fuoco stanno ancora scavando tra le macerie. Carla Bruni, moglie del presidente francese Sarkozy, intervistata in TV da Fabio Fazio, dice: non sono mai intervenuta nella vicenda Battisti, chi dice il contrario calunnia. Novità nella scuola: entro il prossimo anno scolastico nel 50% degli istituti ci saranno le pagelle online e verranno spediti sms ai genitori per avvisare che i loro figli sono assenti da scuola. Infine il calcio: l'Inter nel posticipo batte la Sampdoria 1-0 e mantiene 3 punti di vantaggio sulla Juventus. Vince anche il Milan, mentre nella Roma scoppia il caso Panucci: vado via anche subito. Ed è arrivato il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore proprio sulla battuta di Silvio Berlusconi. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Buongiorno a tutti. Silvio Berlusconi è persona di spirito e amante delle battute. Diciamo che questo tratto del suo carattere ne spiega anche il successo. Una capacità straordinaria di interpretare un certo modo di essere italiani. Alcune battute sono fulminanti. Altre decisamente infelici, come quella di ieri sui militari e le donne o quella famosa sull'abbronzatura di Obama. Spesso viene male interpretato, ha ragione il Premier a lamentarsene, ma che non ne sbagli mai una è assolutamente poco credibile, specialmente per una persona come lui, sempre inseguito dai microfoni. Sarebbe bello sentirgli dire una volta: ragazzi, me ne è scappata una, ho detto una sciocchezza, una battuta sulla battuta che avrebbe un alto gradimento. All'inizio di questa legislatura, tornato a Palazzo Chigi, Berlusconi disse che non avrebbe più rilasciato commenti in strada in margine alla manifestazione cui partecipa. Un buon consiglio autorevole dato a se stesso. Buona giornata, buona settimana. Le 8:35 minuti, grazie a Ferruccio De Bortoli, che ovviamente ritroveremo domattina con il commento. E noi parliamo proprio della notizia, insomma, che ancora continua a destare scalpore tra i cittadini comuni, la notizia degli arresti domiciliari che sono stati concessi al 22enne Davide Franceschini, reo confesso della violenza ai danni di una ragazza 25enne avvenuta durante la festa dell'ultimo dell'anno proprio a Roma. Scalpore perché l'opinione pubblica dice: ma come? Devo dire, anche la politica si è buttata con dichiarazioni molto forti, sdegnate, a dire quel giudice ha sbagliato, messaggio sbagliato nel concedere gli arresti domiciliari a questo ragazzo. Vogliamo cercare di capire tecnicamente perché è andata così e voglio salutare Giuliano Pisapia, che è un avvocato penalista, nella precedente legislatura è stato presidente della commissione di riforma del codice penale. Buongiorno avvocato Pisapia. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, io devo dire che tra vari commentatori, ieri sentivo per esempio il professor Grevi al TG1, oggi ho letto e dopo ne leggerò alcuni stralci un articolo molto interessante di Luigi Ferrarella, che sulla giustizia non ne sbaglia mai una, insomma sempre ben informato, oggi sul Corriere della Sera. Mi sembra che ci sia una fortissima spaccatura tra quello che pensa l'opinione pubblica e quello che pensano i giuristi in generale. Ci spieghi perché secondo lei è giusto, se è giusto, che questo ragazzo sia agli arresti domiciliari? Siamo in presenza di un fatto drammatico e di estrema gravità, sia per il livello di violenza che per le conseguenze forse irreversibili per la vittima. E quindi è ben comprensibile lo sconcerto, la rabbia, il dolore della vittima, dei suoi familiari e anche le polemiche da parte dell'opinione pubblica. Però bisogna essere chiari. Un conto è la carcerazione preventiva, le misure cautelari in attesa del processo e dell'eventuale condanna. Un altro è il problema della certezza della pena e il fatto che debba essere scontata la condanna dopo che ci sia una sentenza definitiva. Ebbene, sulle esigenze cautelari non vi è dubbio che il codice è netto, preciso e direi che forse la difficoltà è applicare la legge, ma nel caso specifico è difficile sostenere, se si conoscono gli atti, che la legge non sia stata applicata. La custodia cautelare, la carcerazione e gli arresti domiciliari sono una forma di detenzione. È possibile, prima della condanna, in tre casi ben precisi. Quando esistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini. Ed è evidente che se una persona si confessa il fatto e sono stati già trovati riscontri, queste esigenze non esistono più, non sussistono più. In secondo luogo è possibile la carcerazione, seppur agli arresti, la detenzione, seppur agli arresti domiciliari, quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste il concreto pericolo che si dia alla fuga. Risulta nel caso specifico che l'indagato si sia presentato spontaneamente ai carabinieri prima che fosse individuato, sì, fosse emesso un mandato di cattura nei suoi confronti. È del tutto evidente che è ben difficile o in ogni caso non vi è un concreto pericolo o rischio di fuga. Diciamo che codice alla mano non ci sono proprio. No, anche perché il terzo elemento, questo, sì, è il rischio di reiterazione delle condotte criminose, della condotta criminosa che possa ripetere un simile reato, è ben difficile data la valutazione complessiva e in considerazione anche al fatto, questo è un elemento deduttivo, che sia il pubblico ministero che il giudice hanno ritenuto che gli arresti domiciliari siano sufficienti per garantire queste esigenze previste dalla legge. Oggi proprio Luigi Ferrarella, iniziando il suo articolo, il violentatore non se l'è cavata, questo è il titolo del commento di Ferrarella, scrive così: è crudele che la politica inganni l'opinione pubblica alimentando nei cittadini l'equivoco alla base delle polemiche sugli arresti domiciliari chiesti dalla Procura di Roma per il violentatore di una ragazza a Capodanno, come se costui l'avesse fatta franca per il solo fatto di essere oggi agli arresti a casa invece che in carcere. E poi prosegue, insomma, però avvocato, è inutile negare, io leggevo anche oggi i sondaggi sui siti di informazione, proprio il Corriere.it, Repubblica.it, le percentuali di persone che percepiscono che ci sia stato un errore sono il 95, 96%, 97%. E allora, voglio dire, si spiega male all'opinione pubblica oppure l'opinione pubblica ha un fondo di ragione? Ma è io credo che si spieghi male, che ci sia un equivoco, perché a fronte degli attuali arresti domiciliari si può ed anzi si deve, essendo evidente la prova della colpevolezza, vi è la confessione e il codice lo prevede espressamente, che vi sia il cosiddetto giudizio immediato, cioè si va a processo immediatamente in tempi brevissimi, in tempi brevi si può arrivare a una sentenza definitiva e a quel punto sarà scontata la pena, che ripeto è una pena estremamente rilevante, nel senso che nel caso specifico la pena prevista è un minimo di 5 anni e un massimo di 10 per la violenza sessuale. Insieme alla violenza sessuale è molto probabile che venga contestato anche se questo di persona, che prevede pure la pena fino a 8 anni. Ecco, quindi il problema oggi per eliminare il senso di impunità e per creare quel deterrente necessario affinché fatti del genere non avvengano più, non è tanto o solo il problema della custodia cautelare o della carcerazione preventiva, ma quello di arrivare in tempi rapidi a una sentenza in cui venga erogata la pena adeguata e che questa venga ascoltata. Quindi qui è il vero nodo, insomma, la velocità ora del giudizio, insomma, per non far rimanere giustamente nel limbo questo desiderio giusto di giustizia che c'è da parte delle vittime. C'è però qualcosa di più. Lei, avvocato, avrà sentito ieri sia la ragazza, insomma, in una battuta rubata in studio aperto, dire o fate in fretta oppure mi faccio giustizia da sola. Oggi c'è un'interessante intervista, sempre al Corriere della Sera, di Franca Rame, che ricorda la violenza subita il 9 marzo del 1973, sono passati tantissimi anni, ma Franca Rame ancora racconta in questa drammatica intervista a Fabrizio Roncone tra le lacrime, insomma, dicendo una donna non potrà mai superare un momento del genere. Capisco la voglia di vendicarsi, io non sono mai riuscita a dimenticare, dice Franca Rame, donna che insomma... di certo si può definire tutto tranne che giustizialista, avvocato Pisapia. Ecco, non c'è una giustizia che però dà troppo poco spazio forse a quelli che sono i sentimenti, magari anche le pulsioni delle vittime, e dà tutte le tutele del caso invece, come si suol dire, a Caino? No, la giustizia che dà poco spazio alle vittime è quella giustizia che non tiene conto delle vittime e soprattutto non dà quei supporti immediati, anche di carattere psicologico, umano, di sostegno alle vittime. La giustizia che non funziona è la giustizia che arriva tardi, e su questo bisogna intervenire, e nel caso specifico vi sono tutti i presupposti, e qua i magistrati dimostreranno, spero e ne sono convinto, ma allora sarebbe grave se così non fosse, la capacità di arrivare a una decisione giusta, che sarà una decisione di una condanna severa che sarà scontata, perché il reato è gravissimo, la rabbia della vittima è comprensibile, i giudici devono applicare la legge. Nel caso specifico la legge nei confronti dei reati di violenza sessuale e di sequestro di persona è una legge che prevede, come ho detto, ripete, pene superiore ai 10 anni di reclusione, che possono arrivare addirittura a 18 anni di reclusione, e quindi l'importante è che quella sentenza, quando vi sarà, e spero, ripeto, in tempi brevissimi, come prevede espressamente il codice, sarà eseguita, e a quel punto evidentemente sarà eseguita in ambito carcerario. Per concludere, avvocato, lei è stato anche un politico parlamentare, Ferrarella dice proprio nel pezzo che ho letto, la politica inganna i cittadini, con dichiarazioni da destra e da sinistra, per esempio, a dire vergognosa questa decisione. Che ruolo sta avendo secondo lei la politica su questo? Ma sulla giustizia la politica ha avuto sempre un ruolo pessimo, strumentalizza l'emotività e la rabbia comprensibile, il dolore comprensibile delle vittime e della collettività, e non fa nulla per rendere la giustizia effettivamente veloce. Quindi credo che gli ultimi a parlare debbano essere quei politici che fanno proclami ma non operano in Parlamento. Non vorrei generalizzare, perché io credo che anche all'interno della politica vi siano persone che invece ragionano e vogliono che la giustizia funzioni effettivamente, celermente, sia celere, efficiente e soprattutto sia equa. E allora grazie all'avvocato Giuliano Pisapia, che voglio ricordare, penalista, è stato presidente della commissione di riforma del codice penale nella precedente legislatura. Insomma, il caso che anche a vedere dagli sms è molto duro, è chiaro, è impopolare. impopolare dire il giudice non ha sbagliato, è molto impopolare dirlo, perché è facile, no, tirare fuori parole che parlano di vendetta, di gogna, di giustizia subito, come se gli arresti domiciliari non siano giustizia. Il vero nodo su cui si gioca, come ha spiegato bene Pisapia, è ora un processo veloce, rapido, subito, con una pena certa, se si accerteranno, come si accerteranno, visto che il reo confesso tutte le responsabilità del caso. Parleremo di scuola nell'ultima parte di 24 mattino, perché come avete sentito anche nelle notizie arrivano, oltre al 5 in condotta che arriva e ci sono le scuole in subbuglio, arrivano anche gli sms a casa dei genitori per dire: oh, guarda che tuo figlio oggi a scuola non c'è, che ne pensate? Ultima parte di 24 mattino, voglio salutare Giorgio Rembado, buongiorno. Buongiorno. Il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, ora dirigenti scolastici, insomma. Presidente Rembado, allora, l'avevamo chiamata per il 5 in condotta, e questo insomma rimane tempo di pagelle, adesso torna il 5 in condotta, ci sono moltissime scuole che sono in subbuglio e già studenti che prevedono ricorsi al TAR, ma che scuola è quella in cui se c'è una novità poi c'è sempre qualcuno che la contesta e fa i ricorsi? Corsi al TAR? È una scuola che tende un po' all'anarchismo, lo dico come battuta, ma ovviamente c'è, come in tutte le battute, un fondo di verità, nel senso che evidentemente qualsiasi organizzazione deve fondarsi su regole. È bene che si fondi su regole condivise, ma naturalmente una volta date poi le regole debbono essere rispettate da tutti, naturalmente. E questo vale anche per il 5 in condotta, con una premessa: il 5 in condotta è una valutazione di insufficienza, naturalmente, ma data con estrema parsimonia e in casi assolutamente eccezionali di particolare gravità. E allora da questo punto di vista va visto nel primo quadrimestre come un segnale dato agli studenti, alle famiglie, un orientamento in direzione del cambiamento e del miglioramento. Nel secondo quadrimestre, se venisse confermato, avrebbe gli esiti che tutti sappiamo, e cioè la non ammissione all'anno successivo, ma verrebbe valutato dai consigli di classe, così come nel primo, ma a maggior ragione, con grande prudenza e con grande assenatezza. E intanto chissà, forse arriveranno appunto i ricorsi degli studenti che dicono che se mi becco il 5 in condotta faccio ricorso. C'è sempre di fronte a una bocciatura un genitore pronto a fare ricorso al TAR. Un tempo il 5 in condotta attuale era il cosiddetto 7 in condotta. Voglio salutare Mimmo Calopresti, buongiorno. Buongiorno. Regista. 7 in condotta. Adesso ci veniamo. Regista, voglio ricordare di tantissimi film, l'ultimo è La fabbrica dei tedeschi, ma insomma, come non dimenticare anche Preferisco il rumore del mare, per esempio, La buffata, insomma, regista famoso, affermato. E 7 in condotta quanti, Calopresti? No, qualche volta è capitato nel percorso che improvvisamente, come dire, c'è il tumulto, confusione, eccetera, allora venivo individuato come il cattivo della situazione, no? Vabbè, non mica sarà stato un accanimento, evidentemente, no, c'entrava qualcosa. No, assolutamente no, me lo meritavo, da questo punto di vista me lo meritavo, ma l'ho trovato sempre inutile, ecco, da questo punto di vista, senza parlare di 5 adesso, no? Cioè, si diventa più forti nel intervenire col numero, credo che serva poco, semplicemente. Quando sento 5 condotte mi sembra improvvisamente invece di cambiare epoca, no? Di arrivare agli anni 50... 60, insomma, non le piace. È che si rischia la bocciatura, si rischia la bocciatura, quindi si rischia di perdere. Si rischia per molte cose la bocciatura, ecco. Questione del 5 mi sembra, come dire, un'operazione, un momento in cui i professori dimostrano la loro impotenza, no? Improvvisamente uno dice: non so cosa fare, è 5, ecco. Allora, da questo punto di vista mi piace più, come dire, il detto evangelico, no? Che c'è qualcuno che avrà 5 o 7 di condotta, pochi. E quei pochi lì, insomma, sono come le pecorelle smarrite. Mi piacerebbe più che fosse affrontato così. Ecco. Senta, ma la novità che è oggi sui giornali anche è questa, cioè che arriverà entro l'anno prossimo il 50% di scuole verranno coperte da questo servizio, oltre alle pagelle online, e vabbè, insomma, sappiamo che c'è internet, anche i servizi SMS a casa ai genitori, del tipo a dire: guardate che vostro figlio non è a scuola. Vi informiamo di questo. Insomma, nell'era della tecnologia c'è già qualche istituto lo fa, ma si estenderà al 50% delle scuole. Che cos'è? Come la vede? Un grande fratello scolastico oppure è giusto, insomma, che i genitori vengano informati? Ma probabilmente i ragazzi impareranno il modo anche di sfuggire, no, a questo controllo, come è sempre successo, è sempre un, come dire, una bella battaglia, no, tra chi deve controllare e il controllato. E quindi non lo trovo così grave, così va bene, ma penso che saranno, i nostri ragazzi sono bravissimi dal punto di vista tecnologico ormai. E vabbè, e quindi, però se arriva l'SMS a casa dei genitori, insomma. Ma allora lo deglieranno, troveranno il modo di chiudere il telefonino, troveranno il modo di. È molto importante questa cosa, per esempio, di non andare a scuola ogni tanto, di fare qualcos'altro. Nella mia vita è stato molto importante, perché sono uno di quelli che è andato ai cinema al mattino, no? Lì che mi sono fatto la mia formazione cinematografica. Ogni tanto andavo nei cinema aperti a Torino al mattino, erano certi tipi di film così che. Ed era bella questa vita. Era bello tanto. Questo. Non so che ne pensa il nostro preside Rimbado. Insomma, è un messaggio, che messaggio educativo passa. Rimbado, che ne pensa lei di dell'avvisare i genitori via SMS? Ma sullo strumento c'è poco da dire, nel senso che i genitori hanno il diritto di essere informati circa la presenza a scuola dei loro figli. L'importante è che il rapporto scuola-famiglia non resti circoscritto all'ambito degli SMS, perché allora sarebbe davvero un isteridimento, anche perché il rapporto della famiglia con la scuola non è solo unilaterale scuola-famiglia, ma anche in senso inverso, nel senso che ovviamente si debbono condividere anche qui gli obiettivi educativi, e questo con gli SMS, con gli SMS, dicevo, nell'ambito dell'informazione sulle assenze non si può fare. E poi ci saranno secondo lei genitori che dicono no per carità, io se non lo so che mio figlio non va a scuola non voglio saperlo, vuol dire che ho sbagliato qualcosa, non so, nel rapporto, vuol dire che è normale così, lo facevo anch'io, ma meglio che non me lo diciate, meglio che tratti privatamente, insomma, con mio figlio guardandolo negli occhi alla sera. Può anche darsi, naturalmente non sarà obbligatorio, per cui quei genitori che volessero escludersi dall'informazione lo potranno fare. Certo. Non credo che sia una grande trovata. Mi sa un poco della tecnica dello struzzo, però comunque non lo si può escludere. Caro Presti, per concludere, lei insomma è diventato regista anche per aver marinato la scuola, no? Qualche volta si può fare, ecco, io dico che non si esagera, ovviamente, se uno va a mescola alla fine verrà bocciato, il pazienza. Ma la cosa peggiore che ha fatto, per cui si è meritato un set in condotta, cos'è? Cioè andava... Mi sono meritato una settimana di sospensione a scuola. E che ha fatto? Una volta ho impedito la presa dentro la scuola durante una manifestazione. Cioè, chi ha fatto l'ha bloccata fisicamente? L'ha bloccata davanti al cancello. Cioè... Non entra neppure lei, guardi, perché non è giusto, oggi c'era uno sciopero, c'era una manifestazione, credo, dei metalmeccanici, per cui si era deciso di andare a questa manifestazione e ha detto penso che debba venire anche lei, sarebbe giusto così. Vabbè, e l'ha bloccata così, si è preso una bella settimana di sospensione. Comunque io vi ringrazio sia Giorgio Rimbado, il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, e il regista Mimmo Calopresti, insomma, che ci ha raccontato un po' le sue disavventure scolastiche di qualche anno fa. Farà discutere questa decisione, insomma, di mettere gli SMS per avvisare i genitori sull'assenza dei figli da scuola. Vedrete che farà sicuramente discutere nei prossimi giorni. La notizia è fresca oggi sui giornali. Ci fermiamo qui ringraziando Alessandro Marcotulli in redazione e Carmelo Lauricella in regia. Vi ricordo, tra poco parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Dopo il GR24 si parlerà oggi della decisione di dare, probabilmente in settimana se ne discute, gli incentivi all'auto. 800 24 00 24 per intervenire, e noi ci ritroviamo con 24 mattino domattina.